sia riuniti in un vortice, raccontando di storie vecchie e nuove, e mi parlano di ciò che provo, credo, sono, sorridono, celando ciò che io voglio vedere ancora, coi miei pensieri alle soglie dell'aurora. Ed è come se non ci fosse Io chiedo ancora scusa per questo trambusto di questa sera, ma insomma purtroppo sono cose che possono capitare, anche le macchine a volte insomma hanno problemi e purtroppo è successo questa sera. Comunque sta sistemando adesso insomma qualche minuto e saremo in diretta con Frida Neri, che ci presenterà il suo disco insomma in questa ora, insomma, che faremo non di più, perché ovviamente insomma l'ora è quella che è. E nel frattempo insomma vi tengo compagnia io con la mia voce, Agostino Spolore, qui questa sera. E però la compagnia migliore insomma ve la tiene lei insomma con la sua musica, il suo disco che si chiama Frida Neri, un EP di 5 canzoni, ma una più bella dell'altra. Ci siamo ascoltati poc'anzi Alle soglie dell'aurora, adesso invece tocca a Sara Sottile. Esile figura non ha quasi un odore, tiepida la pelle di marmo e piume. Sara lascia spazio fra sé e le persone, teme il buio e sogna luce. Viso che non ha più un'età né un'espressione, l'anima tagliata. Sara sorride, grida mute covano in fondo alla sua voce. lottano per poter dire nelle mani, le sue mani, bianche foglie da colorare. Sara lo sa, corre nel vento e si fa lieve. Sara anima sottile, danza in un corpo che non vuole. Fragile presenza non ha forme di donna, vive in una bolla d'aria sospesa e sola. Sara non si arrende, corre più forte per sfuggire alla sua fame. Nelle mani, le sue mani, freddi fiumi da Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ce l'abbiamo fatta. Allora. Sì, sì, sono arrivati. E come si è detto, musicalmente capita, però la musica è più forte degli imprevisti, vero Frida? Sì, anche di una panda a metano lanciata sull'autostrada. Velocità. Ciao, benvenuta, ben arrivata. Grazie. Tanta strada per insomma. Sì, però dai, ci sta, va bene. Oh, sì, va l'importante bene. È essere arrivati prima della fine, insomma. Sì, no, sì, ci siamo ancora in facciamo, tempo. Facciamo un'oretta, la facciamo. Un'oretta ce la facciamo. Beh, allora, facciamo fino alla mezza, fino alla mezzanotte e mezza. Allora, parliamo pochissimo perché vogliamo ascoltare la tua musica, sì. Però parliamo di questo disco, di questo tuo primo questo tuo primo EP, che è uscito ancora a gennaio. Esatto, fine gennaio. Che è un capolavoro. Oh, grazie. No, davvero, veramente Frida, è veramente un disco bellissimo. Sono contenta. Dobbiamo citare anche il tuo chitarrista. Certo, Antonio Nasone, special guest, si è unito a questa folle avventura. Folle impresa. E, ecco, il disco è qualcosa che stiamo portando in giro per il paese, in varie situazioni, da club. Abbiamo fatto il The Place di Roma, che insomma per un cantatore è una bella cosa. Abbiamo fatto librerie come la Libreria del Cinema, abbiamo fatto AIE, come nelle Marche, e ci aspetta, ci aspettano varie avventure ancora quest'estate, sempre in compagnia dell'EP, ma non solo. Quindi ci siamo buttati a capofitto in progetti di teatro canzone, concerti reading, perché ci piacciono le cose belle, che possono essere dette in tanti modi, perché la musica non è un campo delimitato da paletti, ma è qualcosa che fluisce, incontra anche altre discipline come la poesia, il teatro e soprattutto i luoghi. Quindi incontreremo teatri, incontreremo chiese abbandonate, e quindi dai, siamo molto contenti di questa opportunità che il disco ci sta dando, ecco. Però tu hai vissuto un'esperienza che credo ti invidiano tantissime persone, forse sai già di cosa sto parlando. Sì. Io ho avuto modo di vederla non dal vivo, ma insomma tramite, grazie a Dio, la tecnologia, cioè a YouTube e insomma a internet. Ma sei stato in un posto splendido e hai fatto un concerto meraviglioso che credo chi sia stato lì porterà nel cuore per molto tempo, se non anche per la vita. È un concerto splendido in questo oratorio. Sì, è un eremo, addirittura, scusa, era proprio scusa. Una chiesa consacrata, e di questo ringrazio tantissimo, di questa opportunità, i frati camaldolesi, che sono di un'apertura mentale oltre che di una... Sperduta proprio. Sì, sì, sì. È stato molto bello il fatto che loro abbiano lasciato questo spazio sacro per fare musica assolutamente non sacra, e loro erano lì con noi, insomma, a gioire di questo piccolo avvenimento, anche perché è durato poco, essendo il luogo così intenso non si poteva stare chissà quanto, però è bastato, devo dire, anche è bastata quella quasi ora, diciamo così, in cui siamo stati lì, ed è stato meraviglioso esserci, è stato bellissimo viverlo con persone diverse e averlo scelto noi, perché cioè, non è qualcosa che, diciamo, si usa tra virgolette, ma ci siamo incaponiti e abbiamo detto no, lo facciamo. Ma il luogo si addice alla musica che hai fatto te, perché hai abbandonato il rock, tu eri una rockettara, hai amato il rock e sei buttata agli archi, una musica molto d'atmosfera. Del rock e gli archi ci passa, non ci passa tanto tempo, non ci passa, ci passa solo un minimo, secondo me. Sì, sì, come due stati d'animo, l'anima è sempre la stessa, poi gli stati cambiano, esatto. È vero. Adesso facciamo gli stati d'animo veramente qua dentro, quindi cominciamo a suonare qualcosa. Sì, cos'è? Insomma, adesso state. Non io puoi direi di iniziare come inizia il disco, sì. E dopodiché ci svincoliamo e vi facciamo sentire cose nuove anche. Bene, bene, bene. Okay. Addirittura. Sì, questo non lo so, questa è un'esclusiva che non sapevo, Maurizio. Non me l'aveva mai detto Frida. Ricordiamo che lei doveva già venire qui a presentarci il disco ancora a gennaio, se non mi ricordo male, vero? Poi c'è stato questo contrattempo, esatto. Poi comunque c'è stata questa bellissima esperienza che comunque, tanto per chiudere il discorso, lo potete tranquillamente vedere su YouTube, ci sono i filmati proprio integrali, sì, delle canzoni, che quindi, e c'è un audio tra l'altro splendido, sì, si sente benissimo, si vede altrettanto bene, quindi è assolutamente da... È nata una squadra, ci sta accompagnando una squadra con varie persone che ci sostengono e ci aiutano, certo, dai cameraman come il mitico Mario, fino a appunto organizzazioni come era, cioè appunto i frati camaldolesi, che comunque hanno deciso di accoglierci come un sostegno, diciamo così, e quindi questa è una cosa bella, insomma. Allora adesso ci ascoltiamo questa canzone che apre il disco, cioè Alle soglie dell'aurora. Esatto. E lei è Frida Neri con il chitarrista che... Antonio Nasone. Prego. E nell'aria danzano pensieri uniti in un vortice, raccontano di storie vecchie e nuove, e mi parlano di ciò che provo, credo, sono, sorridono celando ciò che io voglio vedere ancora. Coi miei pensieri alle soglie dell'aurora, ed è come se non non ci fosse un limite in ogni singolo istante, dentro ogni minuto, in ogni pezzo mancante, in tutto quello che ho. E nell'aria si perdono ogni profumi e di colori, ritornano svelando ciò che io voglio vedere ancora. Coi miei pensieri alle soglie dell'aurora, ed è come se non ci fosse un limite in ogni singolo istante, dentro ogni minuto, in ogni pezzo mancante, in tutto quello che ho, in ogni singolo istante, dentro ogni minuto, in ogni pezzo mancante, in tutto quello che ho perduto, all'estremo confine di un battito. La ragione di vivere è un brivido inarrestabile. Chiamate, vi prego, il mondo, la valle del fare anima, allora scoprirete a cosa serve il mondo. È una frase che hai messo a te di un poeta, è una frase bellissima. Sì. Come mai ti è venuta questa ispirazione per aprire il disco, insomma? Perché con una frase viene espresso, diciamo, quello che al mio avviso è il senso del nostro essere su questo pianeta. Cioè, credo che sì, che ognuno di noi, cioè, fare anima poi è qualcosa che dice, non dice, no? Cosa significa? Beh, significa arrivare, secondo me, al nocciolo delle cose, cioè il cercare di scoprire e sentire cosa siamo, ma soprattutto cos'è che di profondo ci veramente muove, e, come esseri umani in senso lato, quindi non solo musicisti o artisti, ma anche proprio ognuno di noi. Sì. Tu hai detto che, abbiamo parlato precedentemente, che dalle chitarre distorte alle corde più delicate, dalle chitarre distorte, perché la distorsione fa musica, fa rock, fa movimento, però sei arrivata agli archi, quindi è una fase diversa. E questo pezzo che abbiamo sentito adesso, che apre il disco, apre l'EP, è un viaggio nel tuo interno, un viaggio che odora di folk, bro. Molto folk. Mm-hmm. C'è molto folk, e il folk è una descrizione dell'anima, e per quello il folk è bello, interessante, va nelle radici, all'interno, sì, dentro, esatto. È quello che apre il disco in questa maniera, e l'essere stato presentato in un luogo particolare come era stato l'Eremo ha questo significato. Eh sì, esattamente. Poi anche questo ha molto a che fare, secondo me, con il percorso esistenziale, sì, degli uomini, cioè crescere un po' togliere, no? Invece che mettere, però lo si capisce poi, si spera di capirlo presto. Sì, insomma, ma anche se la distorsione è un altro modo di mettere. Ah, certo, è un, sì, è un altro, sì, modo, sì, di dare. Sì, sì, sì, assolutamente. Distorce la chitarra da un suono distorto, è bello, è positivo, ma si può anche cambiare distorcendo, mm-hmm, anche un arco. Ah, sì, il buon, sì, Jeff Buckley faceva dalla chitarra, sì, acustica, faceva delle cose strepitose, sì, e dobbiamo partire da quello. Tu hai citato Bon Iver, mm-hmm, Bon Iver è un grande musicista, mm-hmm, un musicista americano, non è un tradizionalista, anche se la musica acustica è tradizionalista, non è vero, ha delle sonorità particolari, sì, lente, coinvolgenti, sobrie, però è Bon Iver, cioè dà un tocco particolare alle cose, ed è la sua anima, è la sua anima, sì. Come hai citato un'altra musicista, Anais Mitch, che ha fatto un disco meraviglioso. Però è una seguace di un'altra grande artista americana della stessa etichetta. E questo, tutto, sono tutte cose. Annie DiFranco. Esatto, Annie DiFranco ha fatto tantissimi dischi stranissimi, sì, però sempre con quella caratteristica della cosa minimale, scheletrica. Sì, e secondo me accanto all'essere scarni c'è anche tanta voglia di sperimentare, esatto, e fare le solite cose. Esatto, lei ha fatto, avendo un'etichetta personale, ha sperimentato tantissimo. L'ho vista ultimamente dal vivo e hai fatto bene a vedere. Mi ha scioccato, meravigliosa, da sola, voce e chitarra contro il mondo. Fa tutto. Meravigliosa. Ha sempre fatto di tutto da sola. Meravigliosa. Sempre dato contro tutti, chiaramente. Benissimo. Beh, ricordiamo che le canzoni comunque nascono così, da soli, contro il mondo, con la propria chitarra, sì, vero o no? Come le tue canzoni, penso, Frida. Sì, sì, sì, sì, sì. Beh, poi anche loro hanno un percorso, no? Nascono in intimità, certo, poi piano piano si affacciano al mondo, incontrano i musicisti che mi accompagnano, che un po' la stravolgono dal punto di vista musicale, insieme la si rielabora, la si digerisce varie volte. E poi quando arriva al pubblico ancora c'è magari a volte qualcosa da cambiare, e poi suonandola finalmente cresce la canzone e ti saluta, dici io vado da sola. Ma annuito anche Antonio, adesso puoi avvicinarti al microfono e dire qualcosa anche a te, quando abbiamo parlato di Annie DiFranco, sì sì, hai detto, è vero, è vero. Di questo progetto, tu fai parte integrante di questo progetto assieme a Frida, sì, cosa ti è sembrato, perché avete costruito un progetto così archi dalle chitarre distorte? Beh, mi sembravano, non so se si sente. Sì, adesso sì, si sente, sì, bene. Mi sembrava una scelta sicuramente attinente a quello che è la sostanza, diciamo, perché tutto sommato la sostanza e la forma nell'arte in generale dovrebbero coincidere. È vero, hai detto che non è così, però. Ma ci si deve provare. Direi che è così. Ci si deve provare, Frida, c'è riuscita, c'è provato, ma c'è riuscita. Certo, sì, dichiaramente. Sì. Io, se posso permettermi di farti una critica, vai. Posso? è in tono scherzoso, Frida. Ti critico quello che dici qua. Dici, grazie alla fiducia e alla cura delle persone che hanno creduto e credono in me, che hanno amato e amano, perché così facendo hanno dato vita a queste piccole canzoni. Secondo me non sono piccole queste canzoni. Grazie. Perché, cioè, le sminuisci, secondo me, insomma, se così. O forse perché sei, forse è il un tuo tono modo affettivo di dire modesto. Queste canzoni piccole, come dire piccola, no? Alla persona che ti che ami, in un certo, certo, senso. Quindi è una sorta di senso materno. Adesso sono piccole, poi un giorno cresceranno. Sì. Oggi, per esempio, mi sento dire sono un po' più, dai, sono adolescenti, sono le giovani canzoni. Però sono grandi canzoni, credimi, insomma. Grazie. Hai fatto veramente un capolavoro qui. Ma questo qui è praticamente l'inizio di un è progetto. Solo l'inizio. Di un progetto molto più grande, se no. Sì, sì, e già ti dico, già a distanza di pochi mesi le cose stanno cambiando, appunto, già chi ci sente dal vivo, chi ha la possibilità di seguirci, può notare, vedere e sentire soprattutto cos'è che cambia. E, cambia molto, cambiano, non è una questione di arrangiamenti, ma di atmosfere. E c'è una continua evoluzione, c'è una tensione, meno male, insomma, perché significa che si è in movimento. E tu hai parlato di viaggi, tu sei stata a Stone Age. Sei stata in Gran Bretagna, sei stata in India recentemente, sì, in India. L'India, secondo me, c'è qualcosa che gira intorno, come diceva una volta, si diceva, c'è qualcosa che gira intorno. Non c'è il sitar, chiaramente non c'è il sitar, però ci poteva ancora essere. No. Ci poteva anche essere il sitar, secondo me. Sì, Tu sei incredibile con l'osservazione, cioè è devastante questo uomo. No, sì, perché tra l'altro, allora, Antonio suona svariati strumenti dai Stasera non hai portato il sitar, stasera niente sitar, no? O lui o il sitar in ok, macchina, ma non ci tutti e stava. due, no? Però ecco, per esempio nel disco appunto c'è un salterio, Antonio suona gli ukulele, Certo. mandolini, quindi c'è anche questa grandissima curiosità mia, anche se non li suono, ma proprio di sentire, di cantare insieme al suono di strumenti vari, non voglio dire tra virgolette tecnici, ma proprio da varie parti del mondo con varie sonorità e vari utilizzi, anche forse lontani dal loro originale utilizzo. E questa è una parte appunto che rientra in quel cambiamento che si sta prendendo. Cioè, c'è la voglia, quando arriverà l'album finalmente, lì veramente ci faremo prendere dalla pazzia creativa, però c'è proprio la voglia di unire strumenti altri da altre culture a quello che facciamo, perché la tavolozza dei colori è infinita, perché usarne solo Pochi, pochi, cioè usarli tutti esatto. chiaramente, Sì, tutti co siamo curiosi, sì, perché siamo. hanno tante variazioni di Sì. colori, mica ce n'è uno. Bianco può essere bianco, l'azzurro può essere azzurro o meno azzurro, e così è la tua musica, può essere azzurra e meno azzurra, a determinate input. E gli archi danno questa sensazione, danno queste colorazioni. Io sono un rocchettaro, quindi amo le chitarre distorte, però quando sento un violoncello o la viola dei Velvet Underground di John Cale, ora dico, lui con la viola faceva la distorsione Sì, che voleva. perché lo spirito della distorsione che può essere anche declinato in altri modi, E no? chiaramente sì. Certo. È anche interessante declinarlo in altri modi. Bene, adesso però ci ascoltiamo qualcos'altro. Ok, Stasera ti faccio lavorare. chiaro, mi sembra giusto. Facciamo una quasi, così. Oh, così mi riposo, non suono. Un pezzo che nell'EP non c'è. Ah, è una new entry per noi, assoluta. Già, Allora. già, già, già. Bene, bene. Riuscire a dire con le parole capita di non potere. C'è chi lo chiama amore, non sapendo bene quale altro nome dare. Allora cos'è che rende labile il confine cedevole, ogni limite. Corpi, carne e pelle si muovono in danze senza nome. Lo chiama amore, non sapendo bene quale abito indossare. Allora cos'è che rende labile il confine cedevole, ogni limite? Cos'è che rende labile il confine cedevole, ogni limite? Com'è avere il fuoco vivo meglio ed io potrei bruciare in mezzo a tutto il resto di noi e poi perdermi. Riuscire a dire con le parole capita, oh, capita. Due chiavi di lettura di questo pezzo, secondo me. Io, è la prima volta che l'ho sentito. All'inizio è un mantra, assolutamente un mantra. Poi cambia, decisamente cambia, e ritorna a essere mantra alla fine. Come mai, Frida? Poi chiedo anche a Antonio, che Conio ha colorato in modo particolare con gli accordi. Tu gli hai detto, sì, devi fare così, sì. È stato un momento e lui è partito così. Sì, beh, perché, allora, perché questa canzone... E quindi l'India viene fuori qua, ma, sì, assolutamente, sì. Almeno la parte iniziale. Qui c'è lo zampino, sì, sicuramente dell'India... in cui tornerò ad agosto. Bene. Ma c'è anche l'impronta di Antonio Nasone e Marco Tarantelli, che salutiamo, al contrabbasso, che è un'impronta che ci siamo scoperti avere tutti un po' addosso, un po' appunto etnica, ma sì, un po' etnica, world music, possiamo sì, dire. Sì, sì. E questa è la deriva che vuoi proseguire, puoi andare. Che è lei che vuole meno. Ti porta. Non lo so. Ti porta. Io non so, io vado, poi no, veramente senza nessun pregiudizio e nemmeno forse una decisione razionale, viene tutto fuori molto spontaneamente e quindi nelle nostre prove, nei nostri riarrangiamenti con questo contrabbasso che adesso non c'è, ma che insomma che ama molto l'etnico, per esempio Marco viene dal mondo del celtico, ma anche lui adora Annie Di Franco, quindi ci sono anche alchimie in questo senso ed è per questo che forse anche il pezzo è diverso, perché c'è dentro un po' di tutto, cioè il ritornello è molto, direi quasi anni 60 nella sua progressione armonica, però ecco ci piace questo taglio che arriva a un certo punto, perché magari ci si invece aspetterebbe di andare lisci lisci nel mantra, invece a un certo punto no, finisce il mantra ed entra un'altra cosa, perché siamo così, siamo un po' schizofrenici, perché diciamo c'è la Pontes nelle tue conoscenze musicali, questa perché... artista portoghese, anche lei è un po' atipica, non è? Ah sì, molto atipica, infatti nel mondo del fado tradizionale è molto, come dire, insomma, non è vista di buon occhio, non, non rispetta buono. La tradizione è una cosa che serve, che ci deve essere, ma che serve soprattutto ad essere non disconosciuta ma superata o arricchita o variata, e lei lo ha fatto in una maniera, secondo me. E tu, i tuoi ascolti non rispettano una tradizione. Bon Iver, la seguace di Annie Di Franco, la Ponte, proprio. Assolutamente fuori dalla tradizione. Sì, decisamente. Sì, sono così, sono un po'... Sì, è una colorata. Stai sperimentando. Sì, tanto. Adesso con Antonio stasera, in questo pezzo che io non conoscevo, che Agostino non conosceva, hai sperimentato, secondo me l'hai sperimentato totalmente, non so come sia l'originale, secondo me è decisamente diverso, l'hai sperimentato totalmente qua stasera, 23:56, tutto dal vivo, assolutamente. Sì, certo. Come nascono le tue canzoni? Come nascono? Allora, beh... Sono esigenze tue di mettere qualcosa per scaricarti oppure sono momenti tuoi intimi che vuoi così mettere su carta? Ma fondamentalmente non lo so, nel senso che è una sorta di coazione quella a scrivere, no? A scrivere e a portare poi fuori, perché molti lo fanno, scrivono e poi si ritengono, insomma, nel cassetto. Certo. Non necessariamente le esternano. Per me è un modo di... cioè io sento l'urgenza, l'esigenza di dire, di portare fuori, insomma... E non solo con la musica, anche attraverso altre vie, però la musica è, diciamo, la mia musa, quindi è la mia preferita, insomma. Però per esempio io appunto sono laureata in filosofia, faccio cose anche con la filosofia perché sento che c'è la necessità di dire delle cose, cioè viviamo in un tempo veramente tosto, veramente duro, e io lo chiamo il tempo del tramonto, e quindi mai come nel tempo del tramonto bisogna dirsi ciò che si è fatto, ciò che non si è fatto, e a livello di civiltà e di società, e penso anche e soprattutto di Italia come paese, e poi insomma a rimpicciolire l'inquadratura fino a me come persona, è il momento di dire, di portare fuori. E le canzoni sono queste, un tentativo di unire, diciamo, un'esigenza propria emotiva alla voglia di comunicare, cioè di dire, oh ragazzi, cioè, diciamoci qualcosa, cioè, diciamocelo, poi cosa non si è ben capito, ma diciamocelo. E poi lo step successivo è la bellezza, il piacere e anche il dolore di cantarle queste cose, perché cantare i propri brani in tante situazioni diverse è sempre un atto di svelamento, comunque, quindi è, e tu insomma, le vivi tantissimo le canzoni quando le canti, eh? Sì. Specialmente nei concerti live fuori, cioè sì, in radio sì, magari un po' meno perché siamo qui, però nonostante tutto anche qui in radio le vivi intensamente, ma nei tuoi concerti, almeno da quello che si evince, da quello che si vede insomma dalle immagini, Sì, io entro in trance, non lo so cosa succede, però credo... mi sveglio dopo, sì, è finito, ok. Però credo sia una cosa bellissima, sì, questa. Lo è. Tu hai partecipato a Nomadi Incontro di Novellara, il discorso dei nomadi, adesso chiaramente i nomadi fanno un genere che è un po' distante dal tuo, però forse molti ascoltatori non lo sanno, ma io avevo una certa età, lo so, molti anni fa Augusto aveva scritto un pezzo, Suoni, era un pezzo assolutamente strumentale e molto di ricerca, che Augusto ricercava le cose. Tanto era il leader incontrastato della band, aveva, cioè, ha fatto tanti pezzi degli anni 60, però quando lui traduceva le cover, non traduceva mai i pezzi, quelli famosi. Ha tradotto un pezzo di Elton John, dal primo album di Elton John, che era bellissimo, prodotto da musicisti di straordinaria, e Elton John era uno sconosciuto. Ha preso un pezzo degli Small Faces, sconosciuto anche quello, di Marriott. Quindi aveva un gusto della sperimentare, come sperimentava quando disegnava gli acquarelli delle cover, delle copertine, sì, dei dischi. E quindi questo incontro con i nomadi può darsi in questa ottica anche. Ma infatti, se, cioè, io quello che ho sentito nella gioia di aver vinto il premio da Olio, perché a parte il fatto che da bambina ascoltavo i nomadi, quello che mi ha reso appunto felice è stato proprio la figura di comunque quest'uomo, un'anima immensa, che al di là dello stile sento vicino per umilmente, naturalmente, cioè, sento vicino per come dire, per il suo sguardo comunque sottile sulla realtà, per la sua estetica, che non, cioè estetica, cioè sì, sì, che ha un valore ben preciso, morale, vitale, cioè per me da Olio, appunto, nonostante i nostri generi siano molto diversi, però lo sento molto più vicino di tanti altri artisti proprio per la sua grande umanità, cioè, sì, la sua arte, perché l'arte non è mai fino a sé, cioè non è manierismo, è ci devono essere delle forti emergenze alla base, altrimenti, cioè, non serve. Adesso invece serve che canti, okay. Sì. Serve sempre, quello stasera serve, sono signore, cattivo, quello serve sempre. Stasera ti faccio lavorare parecchio, Sospiro di sollievo, bravo. Antonio ha già capito cosa, subito. Cosa ci fai sentire? Un'altra canzone che non è nell'EP. Bene. Fa per addolcire la pillola, sai? Beh, praticamente ci fa sentire il disco ufficiale, il prossimo totalmente. Disco, sempre avanti, sempre. Però poi l'aspettiamo qui, insomma. Certo, con il disco nuovo. Quando sarà, uscirà. Come si titola il pezzo, Frida? Il rumore della terra che si muove. Cosa sarà che mi scaraventa fuori all'aria aperta e spinge questo vile cuore verso strade nuove, verso cose che ancora io non so, no. cosa sarà il colore della seta, la musica che rimbalza nella testa è la realtà che scorre fra le dita come un'onda. Lascio che io sia invisibile, persa nel rumore della terra che si muove. Tutto molto più semplice. Limitarsi a respirare, camminando senza chiedersi fin dov'è. Cosa sarà? Sarà l'aria della sera o questa città che mi avvolge e mi trascina nell'anima. Stringo parole nuove che dicono no. Lascia che tu sia invisibile, persa nel rumore della terra che si muove. Tutto molto più semplice. Limitarsi a respirare, camminando senza chiedersi fin dove è. Tutto molto più semplice, o limitarsi a respirare, respirare, respirare, camminando senza chiedersi. Che bella questa canzone, Maurizio. Beh, io sì. Particolare. Sì, molto particolare. Qui Eni Di Franco gira e rigira nel senso positivo del termine, assolutamente. E vorrei sottolineare una cosa: io non so come sarà la versione quella stabilita nel disco. Antonio giocava sulla percussione, faceva una chitarra percussiva come se avesse una piccola batteria e giocava su questo. E questo modo percussivo dava proprio la tonalità alla voce, che doveva essere percussiva anche la voce, entrava e usciva, mm-hmm. entrava e usciva continuamente. Un sì. altro modo, un'altra tua faccia. Infatti il fatto di non avere la batteria ci richiede e ci spinge a giocare tutto di dinamica. Esatto, giocare di dinamica. Molto bello. Decisamente, questo è un pezzo molto interessante. Grazie. Molto molto accattivante nel senso di movimento, nonostante che sia un pezzo difficile, non è un pezzo semplice. Anche come tonalità non è mica semplice. Tutti i tuoi pezzi si devono ascoltare attentamente. Però quando si ascoltano poi le cose vanno su verso giusto. Senti che roba che ha messo su. Ha messo su, vedi, yeah. Agostino ha preso subito a palla al balzo. Ho imparato a conoscere i gusti tuoi. Bravo. Ci conosciamo dalla vita ormai io e te, insomma, quindi. Questo è il disco che tu ami alla follia. Sì, sì. Alanis Mitchell. Esatto, sì, proprio lei. Qui è assieme a Danny DiFranco. Sì, sì, sì, sì. Beh, sì, è stata la sua musa praticamente, ha prodotto lei, eccetera, eccetera. A parte questo disco che resta impresso nella tua mente, c'è qualcos'altro che ti piace ascoltare? Allora, fammi pensare, io quando mi fanno questa domanda non so perché, ma c'ho sempre il vuoto. Allora, cosa sto ascoltando ultimamente? Ma oltre appunto a queste musiche un po', diciamo, world music, appunto, sotto il grande cappello della world music, sto ascoltando voci di donna, tanto, anche non per forza della musica leggera, e vediamo un po', a parte, piccola parentesi, l'ultimo album di Anna Mitchell, che ne è uscito un altro, si chiama Young Men in America, è molto bello, e poi mi sto preparando per i concerti che vedrò quest'estate, cioè, quali? Perché quest'estate mi coccolo e vado a vedere Bon Iver, e vabbè, quello c'eravamo, esatto. Poi vado a vedere Radiohead. Hai preso Bologna. Il biglietto, sei stata brava, sì, a prenderlo bene. Ero lì sulla linea rossa. E poi il 2 settembre vedrò i Sigur Rós. Ah. Quindi ragazzi, anche quello si addice. Sigur Rós, musica un po' anche se l'ultimo disco è molto più facile degli altri, decisamente. Però i precedenti sono molto impegnativi, sì. Esattamente. Quindi giriamo lì, dai, c'è qualcosa che accomuna tutti questi gruppi e queste esperienze così tra di loro così diverse, come appunto il Fado e cosa hanno in comune il Fado, mi dico, e i Sigur Rós. Per me hanno la libertà totale di fare quello che vogliono fare. E potenza. E potenza. Potenza, sì. Proprio delle regioni proprio intime dell'interiorità. Aia. Già. Questi, insomma. Infatti non oso immaginare cosa sarà vederli in concerto. Non un concerto, sarà un'esperienza, una catarsi. Sì, perché una volta c'erano le comuni, e sicuro sono una comune, sì, di adesso. Una volta c'erano le comuni, i musicisti che suonavano, mi ricordo i Grateful Dead che suonavano ore. Sicuro è una comune ridotta, ma è una comune, sì, musicalmente parlando. E quello è importante. Secondo me si ritorna agli anni 60. Gli anni 60 hanno sempre messo i punti giusti, nonostante tutto. Dimenticati o non dimenticati, non sono mai stati dimenticati, sono stati, come si dice, riciclati in maniera diversa. Secondo me è stato l'apice, non mi limito alla questione musicale, ma proprio al modo di viverla. Sì, è partito da là, il 68 è partito da là. Una volta si parlava del 48, un po' di anni prima, ma il 68 è partito da là, ha liberato tutto. La cosa brutta è che noi da lì in poi pensavamo adesso abbiamo liberato tutto. Invece è stata una discesa nell'inferi, ma tanto fa così. Noi però invece siamo ancora sulla terra, sì, e abbiamo le orecchie pulite e ci manca il suono di Frida Neri. Facciamo un altro pezzo? Eh beh, certo, tipo. Ci va bene. Cosa facciamo, Anto? Dai, decidi tu. Una cover? Una cover? Di cosa? Vogliamo fare un piccolo omaggio? Ah, sì, dai. Se ne parlava prima. Sì, dai, facciamolo. Però io mi alzo. Mi alzo perché questo pezzo mi richiede prestanza fisica. Thank you. Confesso che sto scrivendo una cosa su Facebook, brividi portoghesi con Frida. La prima volta che sentiamo il fado qui in radio. È la prima volta, sai. La prima volta in assoluto. Forse una puntatina abbiamo fatto con la Patrizia Laquidara. Sì, esattamente, però il fado è difficilissimo da cantare. Poi sei stata bravissima. Antonio t'ha dato il tappeto, perché ha cominciato a colorare con l'acustica. Con di nylon, c'era Antonio. Il nylon che dà un certo senso alla chitarra acustica. E poi tu hai cantato il fado. Il fado è una cosa difficilissima. Poi, se uno non è portoghese, è doppiamente difficile. Complimenti, c'è poco. Grazie. Ma questa canzone la proponi anche dal vivo nei tuoi concerti? Sì. Ed è per me è un momento strano, perché nel senso è uno dei più intensi, nonostante il pezzo non sia mio, però è, e nonostante sia un'altra lingua che io poi non è che parli. Portoghese. Esatto, però quando qualcosa emoziona c'è poco da fare, certo. Cioè, passa e... Quindi sei in trance totale? Sì, voglio. Che meraviglia, veramente. Complimenti vivissimi e sinceri soprattutto, grazie, perché grazie. Un pezzo estremamente denso di pathos e di emozione, insomma. Ok. Ne facciamo un altro? Ma certo che ne facciamo un altro. Adesso è lanciata. Tanto fino a domani mattina alle 7 non abbiamo. Niente. Non c'è problema. Fino a domani mattina alle 7 che c'è la pubblicità possiamo stare, va bene? Okay. Cosa ci fai ascoltare adesso? Oh, riabbracci la chitarra. Sì. Questo è un pezzo che anche lui nato in un certo modo, cresciuto in un altro e adesso sta acquistando un'altra forma. Fa parte del disco questo qua? No, anche questo fa parte. Però del è precedente. Diciamo. È precedente, sì. Ok. Come deve essere crescere in un mondo che non sa partorire la vita, darle vigore ed invece la incatena a quotidiana comodità per addormentare l'anima come fuochi coperti da una cenere che cancella ogni volontà nell'apatia. Come deve essere scegliere fra mille possibilità, pagare incomode rate un futuro migliore per uscire dalla noia. Mi ritrovo ad ammettere di sentirmi un'estranea nella casa dei miei simili, dove ha senso solo ciò che hai, mentre sento che viviamo dentro una vertigine vicino al limite, ma io sono qua, sono consapevole, io sono qua. Ho tempo e voglia da vendere e porto con me desideri ancora da vivere, io sento che c'è di più. Come deve essere vivere senza una direzione nitida, attraversare il dolore e riuscirlo a sentire, imparando da ogni lacrima senza anestesia, quasi affogare nell'intensità insopportabile. Ma io sono qua, sono consapevole, io sono qua. Ho tempo e voglia da vendere e porto con me desideri ancora da vivere. Io sento che c'è, porto con me le piccole cose che mi ricordano lo spazio e la luce per coltivare ciò che sono. La testarda cura per questo nostro esserci è adesso e qui. No, no, no. Mi ritrovo a sorridere nel rumore delle città, ancora in cerca di occhi simili per guardare un po' più in là. Neanche questa non l'avevo mai. Ma questa è assolutamente, cioè, nel disco non c'è. Posso dire una cosa su questo pezzo? È un pezzo pop, secondo me, questo. Pop nel senso buono del termine, pop popular, quindi allargamento totale, però già la chitarra di Antonio la gestite in una certa maniera, e tu usi la chitarra percussiva, cioè batti praticamente sulla chitarra per dare un suono. Mm-mm. E hai suonato solo l'ultima parte del pezzo, e che hai fatto la stessa cosa nel primo pezzo del disco, hai battuto nella cassa della chitarra per dare questa fase di sonorità, visto che manca la batteria. Esatto, sì, sì. Questo è un pezzo pop nel senso bello del termine, però io l'ho sentita così. Adesso che pezzo facciamo? Un pezzo... No, sì. Diciamo invece, Frida, prima che ci pensi, sì, mentre vi pensate, i tuoi dati, se qualcuno volesse contattarti, insomma, dove si trova il disco, queste cose qui. Allora, il disco è disponibile adesso finalmente anche in versione, diciamo... Fisica, eccolo qua. Fisica, sì, fisica. Quello c'è. E, lo si trova o si iscrive a me, perché è autoprodotto, quindi lo si trova in alcune librerie, naturalmente di due città, Roma e Fano e anche Pesaro. E, altrimenti, appunto, si può scrivere a me o su Facebook Frida Neri, oppure info@fridaneri.com, io ve lo spedirò direttamente a casa. Altrimenti si può acquistare su iTunes e sui portali di musica digitale, sì, comodamente dal proprio computer. Certo, si perde il fascino, che è tantissimo, della materia, del corpo, anche perché c'è una cura anche proprio nella scelta, sì, anche la copertina grafica e grafica, dei contenuti. Certo. Infatti, esatto. Io non so perché, ma non riesco a scaricare niente dai iTunes. Cioè, proprio... Mi ricordo una cosa, questa, si parla di molti anni fa, solo la copertina, non il contenuto, sì. Diaframma di un gruppo famoso, Diaframma, ti ricordo Diaframma, non mi ricordavo, Siberia, ecco, di Diaframma, scusate, sì. Siberia dei Diaframma. Sì, me ne parlava infatti un mio amico che diceva, Siberiana, ma tu sai che Siberia di Diaframma? È il disco più famoso di Diaframma, Diaframma, il musicista straordinario toscano, e Diaframma di Siberia, Diaframma è il titolo, il gruppo, e sì, Siberia è il titolo del disco, e mi ricordava questo, oltre al Siberiana che c'è in fondo al disco stesso. Non so se sia fatto così, secondo me è una casualità. Assolutamente, tu riconoscevi Diaframma? No, non riconoscevi, quindi è un caso. È un caso, però Siberia dei Diaframma aveva proprio questa copertina. Tra l'altro, simile. Questo disco rischiava di chiamarsi Siberiana, perché okay. era una, però, come dire, nato come una sorta di toc toc, salve, io sono Frida Neri, e allora chiamiamolo Frida Neri. Giusto. Beh, Siberiana è bello, già bella la presentazione, sì. Che poi tra l'altro è un prologo, diciamo, questo qua. Eh sì, in pratica è solo l'inizio, come dicevi prima. Noi restiamo in attesa del disco nuovo, ci mancherebbe altro, e che poi comunque già scritto, già ce l'hai detto che viene a presentarlo qui. Beh, l'ha già presentato adesso. No, ma è quel pezzo. No, ma non può. non vale. No, quello non vale, sì. Frida non può esimersi da tornare, che lo sa, che gli voglio un mondo di bene. Cosa ci fai ascoltare adesso? Allora abbiamo parlato di siberiana, facciamo siberiana. Facciamo siberiana, sì. Prego. Aspettate che mi gestisco un attimo la cuffia. Cammino da solo, non ho un pensiero, intorno al fiatare del vento, e c'è terra, c'è mare da incidere ancora, con i miei passi lenti alla sera, c'è colore, lontananza. Trattengo il respiro per un attimo solo, metto a fuoco nel mio obiettivo. Le case, la gente sconfinate e distese, lì dove gli altri non vedono niente. Io vedo ombre, trovo luce, colgo il sale, il re nudo al suo balcone. Ma io non ho niente di più, niente di più di me stesso. Cammino da un pezzo fra la camera al mondo, io ritrovo niente più di me stesso. Ma le case, macerie e le città sconosciute mi hanno detto di cose segrete della vita e dell'amore, della fame, del giorno in cui si muore. Ma io non ho niente, niente di più di me stesso. Posso dire una cosa? Dunque, questo era l'ultimo pezzo del disco in originale, era crepuscolare, intimista, quasi decadente. Quale l'hai fatto proprio rock in questo momento? Hai proprio sfatato tutto, hai completamente rigirato la carta. E mi piaceva molto, ho sempre detto e continuerò a dire, il falsetto, mi piace molto il falsetto. Il gioco del falsetto è molto importante in questo pezzo ed è bellissimo. E hai in alta data un'altra versione, un altro pezzo, anche se chiaramente collegato a quello del disco, ma qua l'hai completamente cambiato. Complimenti, perché grazie. Non è semplice cambiare un pezzo abbastanza recente in modo diverso, totalmente. Grazie anche a Antonio che ha dato un brio diverso al pezzo. Io l'ho sentito così. Grazie, che bello. Credo che per gli ascoltatori, quando hanno in mano un disco così, sia difficile scegliere una canzone, perché cioè, è una veramente una più bella dell'altra. Poi dal vivo tu le rendi ancora più belle, ancora più... più dolce, insomma, perché... Poi una cosa che devo dire, non perché sia qui, però voglio lodare i musicisti che mi accompagnano, perché ho conosciuto, ho suonato con molti musicisti, però è difficile trovare, come dire, dei musicisti che rispettino le tematiche, la poetica della voce. Cioè, questo voglio ricollegarlo a quanto dicevi, dell'arricchimento e del cambiamento. Quando si ascolta profondamente una voce, e secondo me Antonio, soprattutto, che non è il solito chitarrista egocentrico, come dico, certo. Perché i chitarristi sono tendenzialmente egocentrici, non tutti, però scherzo. Ma noi cantanti ancora peggio, quindi insomma è una lotta impari. Cioè, anzi, pari. E, però ecco, la cosa che migliora anche te che canti è quella di essere ascoltato attentamente e accompagnato in una maniera tale che si crei una sorta di, come dire, sì, una compenetrazione che poi dà una cosa in più, cioè da due cose, quindi da una voce e una chitarra vengono fuori 4-5 cose e quindi sono fortunata, quindi... Ringrazio Antonio per la sua presenza e Marco per la sua presenza anche. C'è un vecchio detto che dice ognuno ha quel che si merita, giusto? Oh, wow. Vero o no? Passamelo, ma insomma, va questo bene. È il modo di dire, insomma. Vado a casa con un'autostima proprio alta. Grazie. Beh, io te l'ho detto ci subito volevo. Comunque l'autostima. I miei complimenti ti sono arrivati subito fin da quella prima notte, sì, vero, che vero. Ci siamo sentiti alla RAI, insomma, ecco, quando hai partecipato a quella serata, quel notturno, insomma. E tu sei di sera sempre, comunque di notte sempre. Sì, infatti ci pensavo, cioè, venendo su, dicevo vabbè dai, tanto sono solo le 11:30, anzi no, sì, le 11:30, cosa vuoi che sia, lì è le 2, sì. Roma, ma sì, viver. Allora, ci proponi un'altra canzone, poi magari torniamo in studio e ci salutiamo, sì, visto anche l'ora. Cosa finiamo? No, fai un momento, adesso ne fai un'altra e poi finiamo con un'altra. Poi ne hai due. Cosa quasi finiamo? Facciamo al matrimonio? Al matrimonio, ok. Al matrimonio. Mi passi quella che la faccio con quella, allora. Qua un pezzo molto jazzato nel disco, effettivamente. Adesso vediamo come lo fate qua. Io mi... Dimmi. Mi alzo. Se vuoi alzarti, c'è il microfono là, quindi ti alzi un po' il microfono comunque. Anche. No, quello. Verso, ecco, esatto, così. Ok. Thank you. luce fioca nella stanza, ma riesco a percepire l'estensione. Diversi gli angoli in cui nascondersi e lasciare spazio alla passione che si fa intensa. Vorrei segnare la sua pelle, graffiarne via il timore, e lei farebbe poi lo stesso con me. Lascio che sia carne e impeto, mentre annego un fuoco umido. Lascio che trema ancora, bellissima nel suo vestito blu. Lei sembra libera, sarà forse la luce del momento. Lascio che sia carne e impeto, mentre annego. Lascio che sia distante a dircelo. Io lascio che sia carne e impeto, mentre annego un fuoco umido. Lascio che sia distante a dircelo. Sempre grintosa, sempre nello stesso tempo anche dolce, comunque, mentre canti. Questa è una prerogativa tua, insomma. Ci metti grinta, ma ci metti passione, ma ci metti dolcezza, tantissimo. E anche in questo pezzo l'avete completamente sposato. Sfasato nel senso positivo. Vieni avanti sul microfono. Sì, eccoci. E il motivo è questo, cioè all'inizio era uno spirituals, proprio un iniziale, piccolo tocco di spirituals. Poi l'hai completamente allargato, ma non hai jazzato come nel disco. Nel disco è molto jazzato, cioè il contrabbasso, il gioco del contrabbasso, che è molto importante. Mm-hmm. Qui l'hai catturato in modo diverso, molto più swingato, secondo me. E poi Antonio, con la chitarra acustica che diventava elettrica, l'ha un po' rafforzata. E poi hai finito quasi con una ballata quasi pop nell'interno, nel totale del un pezzo molto variegato, sì, diverso, sì. Totalmente, cioè hai messo in difficoltà chi l'ha sentito prima nell'EP, noi per esempio. Antonio, volevo chiederti una cosa, com'è lavorare con Frida? Molto bello, molto bello, molto stimolante. Ma lei com'è? Esternamente, cioè voglio dire, mentre siete tra di voi, insomma, com'è? Quindi al di fuori della musica? Esatto. E direi... Non guardarlo tu, che ti vedo. Direi molto varia. Posso dare una risposta così, meticolosa, diciamo... puntigliosa. Quanto è diplomatica, sì, ragazzi, sì, è diplomatica. Ma a prescindere dalla diplomazia, insomma, com'è? Sì. Lei è puntigliosa, meticolosa? Beh, io penso che ascoltando le canzoni si sentano anche gli aspetti più profondi di una persona. Certo. Quindi sicuramente si sente la sua sete di capire, di conoscere, di scavare, direi soprattutto, che forse è uno dei suoi pregi principali, tra l'altro. Ammazzo! Questa sera vai proprio a casa felice e contento. Mamma mia, ragazzi. Va bene, noi siamo arrivati alla fine perché insomma è già tardissimo e abbiamo estremamente sforato, sì, assolutamente. Sì, sì. Ci scuseranno i nostri ascoltatori, ma insomma ne è valso la pena, perché lei è una splendida realtà, se me la consenti, della musica italiana, e secondo me meriti tantissimo. Poi hai fatto tanti chilometri da Fano fino a qua stasera, perché hai voluto assolutamente venire, la forza al di là delle difficoltà motoristiche, le cose si superano, quando c'è la musica si supera sempre tutto. Sì, c'è una forza invisibile che trascina, che traina. Esatto. Cosa terminiamo? Questo trainiamo meglio di tutto allora verso la fine. Con cosa terminiamo? Bella questa. Vuoi questa? Intanto magari ti ispira. Cioè, sei come me? Sei come me? Sì, con un altro pezzo new. New. Va bene, noi ti ringraziamo Frida di essere venuta qui questa sera, di aver fatto queste grandi corse. Ringrazio voi per la pazienza, più che altro. È stato un piacere come sempre vederti, rivederti, risentirti, insomma, e noi ci risentiamo, ci vediamo spessissimo, quindi insomma sarà un piacere ancora per la prossima volta, ma soprattutto ti aspettiamo qui in radio con il disco nuovo. Sì, ci vuole un po', sì, quando sarà intanto... vi preparo, e poi magari prima magari ci farai un live qui a Padova al Terminal, come preventivato. Saremo contenti. Sì. Ma vedrai che in autunno ci sarà, insomma, certo. Come ti avrà detto Jacopetti. Allora, a questo punto, la canzone si chiama? Sei come me. Bene, Maurizio, noi ci risentiamo. Ci sentiamo la prossima settimana. Io giovedì. Sì, tu giovedì. Io ancora lunedì, ancora martedì. Mercoledì no, perché festa del santo, quindi è riposo. C'è riposo. Festa, grande festa a Padova, Sant'Antonio. E quindi lunedì prossimo avremo un live con Sergio Bortolami in regia, di un gruppo un po' particolare, abbastanza potente. Tu che sei trascorsi trasgressivi, non si avvicina a te, però può darsi. Ok, ci sentiamo lunedì, però adesso sentiamo l'ultimo pezzo di Frida. Ciao a tutti, buonanotte e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto. Buonanotte a tutti e grazie. Denso e pesante il respiro, suadente l'incedere a passo sicuro, volto di marmo scolpito, impavido sguardo rivolto al futuro, coltivi il cinico gusto di manipolare chi ti sta intorno, perché tu vinca ogni giorno l'eterna sfida che lanci a te stesso, ma sei come me. Uguale a me. Tono pacato e distinto, la voce nasconde reale pensiero, muscoli tesi e veleno, pronti a ferire il tuo nemico, pretende di essere solo per nutrire il tuo vorace orgoglio, ma sei come me, uguale a me, sei convinto di reggere ad ogni difficoltà, pieno di quello che non può lasciarti mai, senza nemmeno un posto per un altro Dante. Tono pagato e distinto, la voce nasconde reale pensiero, muscoli tesi e veleno, pronti a ferire il tuo nemico, ma sei come me, uguale a me, sei convinto di reggere ad ogni difficoltà, pieno di quello che non può lasciarti mai,